Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Quando si svegliava in mezzo ai boschi, nel buio e nel freddo della notte, allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. Notti più buie del buio e giorni uno più grigio di quello appena passato, come l'inizio di un freddo glaucoma che offuscava il mondo. La sua mano si alzava e si abbassava ogni prezioso respiro. Si tolse di dosso il telo di plastica, si tirò su, avvolto nei vestiti e nelle coperte puzzolenti, e guardò verso est, in cerca di luce. Ma non ce n'era. Nel sogno da cui si era svegliato vagava in una caverna, con il bambino che lo guidava tenendolo per mano. Il fascio di luce della torcia danzava sulle pareti umide piene di concrezioni calcaree, come viandanti, viandanti di una favola inghiottiti e persi nelle viscere di una bestia di granito. Questo era l'incipit di La strada di Cormac McCarthy. September, then maybe till December. Well, I'll have to see. Joni, Joni, I am very busy, and this is not a good time for you to come over to me. Joni, Joni, I would need a fish eye to have you by my side, to have you by my side. Oh, but not tonight, Joni. There's some trouble up our street, and the cat looks faint to me. I am sorry. Joni, Joni, wait until September. I think I'm coming over, coming over. Joni, Joni, wait until September, but maybe till December. Well, I'll have to see. Joni, Joni, I am very busy, and this is not a good time for you to come over to me. Joni, Joni, I would need a fish eye to have you by my side, to have you by my side. Oh, but not tonight. Oh, fuck it, I don't have to talk either, man. See how you like it. Just total fucking silence. Two could play at that game, smart guy. We'll just see how you like it. Total silence. Thank you. È la seconda parte di Eclettica. Eclettica che questa settimana è partita di martedì, ma solo perché lunedì era festivo. Di solito è tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Il tutto disponibile anche in podcasting. Mi raccomando, myspace.com/eclettica. Questo rimarrà il punto di riferimento, perché è la 14ª ma anche ultima stagione sulle frequenze di Rock FM. Rock FM che è destinata a chiudere in poche settimane. Eclettica avrà una nuova casa, le troveremo una nuova casa, non preoccupatevi. Per il momento rimanete all'ascolto. Edward Bostic, che abbiamo appena ascoltato, un duo di 15 anni. Incredibile. La maturità che hanno, prima ancora da Glasgow, Correcto con Johnny ad aprire il tutto di questa seconda parte, Cloud Cult. Invece si prosegue con una novità, un gruppo che mette assieme musicisti che arrivano da Memphis, da Chicago, ma anche dalla Germania. Si chiamano Cloudland Canyon, ci eravamo ascoltati anche la loro precedente prova. Questa nuova del 2008 si intitola Lie in Light, dalla quale ci ascoltiamo Krautwerk. Il container dondolava mentre la gru lo spostava sulla nave. Come se stesse galleggiando nell'aria, lo spreader, il meccanismo che aggancia il container alla gru, non riusciva a domare il movimento. I portelloni mal chiusi si aprirono di scatto e iniziarono a piovere decine di corpi. Sembravano manichini, ma a terra le teste si spaccavano come fossero crani veri, ed erano crani. Uscivano dal container uomini e donne, anche qualche ragazzo, morti, congelati, tutti raccolti l'uno sull'altro, in fila, stipati come aringhe in scatola. Erano i cinesi che non muoiono mai, gli eterni che si passano i documenti l'uno con l'altro. Ecco dove erano finiti. I corpi che le fantasie più spinte immaginavano cucinati nei ristoranti, sotterrati negli orti d'intorno alle fabbriche, gettati nella bocca del Vesuvio. Erano lì. Ne cadevano a decine dal container, con il nome appuntato su un cartellino annodato ad un laccetto intorno al collo. Questo era l'incipit di Gomorra, di Roberto Saviano. Until we find a better one. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 21, volume numero 2, Indice, 4th of July, Girls in Hawaii, Borco, Mademoiselle Caro e Fran Garcia, LCD Sound System, The Subjects, Cloud Cult, Correcto, Edward Bostich, Cloudland Canyon, The Note Twist. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.